English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Una puntata interamente dedicata a un'attrice molto amata, molto famosa e sulla breccia da tanti anni. Si chiama Sigourney Weaver. L'avrete sicuramente vista in moltissimi film. Alien è uno tra i più famosi, ma insomma è sempre sulla cresta dell'onda. Noi l'abbiamo incontrata in realtà qualche tempo fa, però avevamo tenuto in serbo l'intervista per riuscire a dedicarle un'intera puntata. Lei è veramente un grosso personaggio. Tra l'altro, brani dell'intervista li troverete anche nel nostro English 24 cartaceo in edicola. Quando abbiamo incontrato Sigourney Weaver, l'abbiamo incontrata all'interno, nell'ambito di un festival cinematografico dove le era stata dedicata una retrospettiva, e le abbiamo subito chiesto: ma lei riguarda i suoi vecchi film? The past ones, no, I mean I don't think my daughter's ever even seen some of the movies. I think she might have seen Alien by this time. But I have them. Someone has sent them to me, but I don't watch them, no. I mean, because, you know, you've moved on. I'm sure you feel this way as a journalist. You know, sometimes you go, why did I used to do that, you know? So, I mean, I love the movies I did. I was proud to be in them, but I don't really need to see my work. I always feel like I'm doing my best work tomorrow. Allora, eravamo a Marrakech, possiamo dirlo, in un bellissimo contesto. Lei ha cominciato a raccontare in maniera molto rilassata così quello che lei pensava dei suoi vecchi film. Le abbiamo chiesto, appunto, lei riguarda questi vecchi film? E lei è molto tranquilla, dice: ma forse non li ha visti nemmeno mia figlia. Sì, poi tra l'altro qui c'è un'espressione interessante che ci fa vedere come l'aggettivo non è mai declinato in inglese, no? Lei, la domanda è appunto: guarda i suoi vecchi film? E lei chiede the past once, quindi past normale, poi invece once, quindi questo sì che lo possiamo mettere al plurale, e poi dice: ma forse mia figlia, my daughter, è il suo, così, la sua pietra di paragone, no? Se mia figlia li ha visti, allora she might have seen Alien, quindi forse she might have seen, è molto possibilista, può darsi che abbia visto, diremmo in italiano, Alien by this time, a questo punto, insomma, perché la bambina è grande, il film ha molti anni, se non altro il primo della saga, quindi ne è passato di tempo, di occasioni per vederlo ce ne devono essere state. È grande, grande, perché è appena andata all'università, quindi almeno un film deve averlo visto. Lei è molto modesta e molto tranquilla sulla sua carriera, dice: lei probabilmente li possiede in DVD, ce li ha, però... Sì, perché forse non se li ha nemmeno comprati, chissà come funziona, se quando uno finisce un film gli danno almeno la cassetta, probabilmente no, se la deve comprare, se la vuole, quindi lei dice someone has sent them to me, quindi qualcuno me li ha mandati. Questo fatto di usare, di non dire send them to me, cioè non me li hanno mandati col simple past, ma usa un'espressione più che indica che la cosa è avvenuta molto tempo fa, quindi chissà da quanto tempo qualcuno glieli ha mandati, però lei in realtà probabilmente non li ha mai rivisti. La verità è che lei dice I've moved on, you've moved on, cioè è passata oltre, è andata, ha superato il passato ed è un po' il suo stile di vita. Sì, moved on è un phrasal verb, no? È uno di quei verbi che combinati con una proposizione cambia leggermente significato. Per esempio to move out vuol dire traslocare, to move on vuol dire appunto andare oltre, si può dire soprattutto in senso figurato, quindi come persona I've moved on. È chiaro che i film appartengono al passato, sono passati degli anni, ma sono proprio io che sono cambiata come persona. E poi è divertente perché a te Marta ti dice appunto I'm sure you feel like this way as a journalist, cioè sono sicura che anche tu hai lo stesso tipo di sensazione come giornalista, cioè anche noi facciamo delle cose che quando abbiamo 25 anni che forse non rifaremmo adesso che, per quanto mi riguarda, ne ho quasi 40. E poi dice a volte capita, e capita a tutti in qualsiasi mestiere, di porsi una domanda. Sì, why did I used to do that? Ma perché facevo quelle cose? Letteralmente, ma perché ero solita fare quelle cose? Vero, verissimo, se io rileggo alcune cose che ho scritto quando ero più giovane, facevo delle domande sciocche, ingenue, mi davo anche delle risposte altrettanto sciocche, e appunto lei poi usa questa espressione con la quale, you know, insomma, capita, no? Sai che succede. Poi dice però che comunque è contenta di aver fatto tutto quello che ha fatto, anzi è orgogliosa. dice I love the movies I did, questo anche se mi faccio questa domanda, why did I used to do that? Però comunque amo i film che ho fatto e I was proud to be in them. Qui è interessante, non so se è un lapsus, perché dice, non dice I am proud to have been in them, non dice sono orgogliosa di essere stata, ma I was proud, all'epoca ero molto orgogliosa di averli fatti. È chiaro, quando uno fa una cosa lo vede come un traguardo e ne è molto contento, poi a posteriori ci si può fare mille problemi, mille domande. Ecco, a proposito di traguardi, chissà se questo ruolo che abbiamo menzionato prima, il ruolo di Ripley in Alien, era per lei all'epoca un punto d'arrivo. It wasn't one of my goals, but I mean, I guess I feel like I keep changing. Every woman I play is so different, and I really do try to do a lot of physical work. You know, it's very important to me what they look like, what their hair is like, what they dress like, I hope and anticipate the audience will go with me completely into this other character, but I can never be sure. But I feel like I'm always trying to go someplace I haven't been as an actor. Qui ripete un concetto che aveva già affrontato prima, dice I'm trying to go someplace I haven't been as an actor. Invece prima diceva I always feel like I'm doing my best work tomorrow. Quindi lei guarda sempre al futuro e cose nuove. È come è quasi un paradosso, no? Penso che il mio lavoro sia quello che non è ancora arrivato, perciò tutto quello che è passato, sono sicura che mi migliorerò, quindi my best work will be tomorrow. E cerco sempre di andare in posti, some place I haven't been as an actor. Place magari anche in senso figurato. Sì, ovviamente to go someplace vuol dire anche fisicamente, quindi stai andando da qualche parte, però questi sono luoghi dell'anima o comunque appunto diverse interpretazioni di come attore. Interessante anche che lei non dica actress ma actor, cioè usa questa forma neutra, diciamo, non maschile, probabilmente la vede come appunto dare pari dignità a chi è uomo o donna e fa questo mestiere. Effettivamente lei è molto liberale, quindi possiamo dare questa interpretazione. Ma tornando a Ripley, lei dice che effettivamente forse al momento non si accorgeva dell'importanza di quel ruolo, non era per lei un obiettivo. Sì, dice it wasn't one of my goals, no? Goal sappiamo che vuol dire proprio più che il goal, perché poi in America non è tanto il goal ma è invece il football o altre cose, perciò il goal che noi diciamo identifichiamo subito col calcio, no, per loro un americano se dice goal vuol dire obiettivo, quindi questo non era uno dei miei obiettivi, però ovviamente poi dopo forse le cose poi quando le fai ti rendi conto di che portata hanno avuto. C'è un'espressione che magari chi ascolta musica o legge sente molto. I feel like I keep changing. I feel, tutti sanno che vuol dire provare, sentire, ma I feel like è un'espressione diversa. Sì, proprio vuol dire ho l'impressione di, quindi anche se feel vuol dire sentire, feeling sono i sentimenti, I feel like è proprio ho questa impressione, ho questa sensazione. E può essere anche qui una cosa fisica o invece una cosa che riguarda un atteggiamento. E anche un'altra espressione, I keep changing, keep con il verbo con ling. Esatto, noi diciamo io continuo a cambiare, quindi mentre in inglese to keep, che vuol dire continuare, vuol dire anche un sacco di altre cose, ma per esempio housekeeper è la governante, colei che tiene la casa, quindi I keep changing sempre con il gerundio, quindi I keep singing, I keep changing, I keep running, non mai I keep to run. Ecco, se uno dice così viene subito bollato come uno straniero. Prima abbiamo sentito I feel like e invece dopo lei dice, usa l'espressione to look like, diverso. Dice, spiega un po' il suo approccio alla recitazione, quindi dice I do a lot of physical work, cioè faccio un sacco di lavoro fisico, ma che cosa vuol dire? Non mettersi lì a fare le flessioni, ma guardare l'aspetto fisico delle persone che deve interpretare, quindi what they look like, what they dress like, what their hair looks like. Come anche in tedesco il like si può mettere alla fine della frase, quindi come sono, qual è il loro look, come si vestono, noi lo mettiamo all'inizio, gli americani lo mettono alla fine. Per concludere con questo estratto, completely into this other character, noi lo diciamo sempre, ma ripetiamolo ancora una volta, questo character. Character, personaggio, poi anche carino questo to be completely into someone, perché questa è anche un'espressione, tra l'altro credo che stia per uscire un film, to be into someone vuol dire anche essere preso, quindi it was not that into you, vuol dire non era poi così preso da te. Sì, il film è La verità è che non gli piace abbastanza, e ne parleremo sicuramente, perché è tratto da un libro molto molto divertente e anche molto vero. Ma abbiamo parlato di character, cioè di ruoli, di personaggi, e Sigourney Weaver come sceglie i suoi ruoli? I have to say that I'm a great admirer of older films, and I love the old comedies, especially like Grand Hotel. I love old ensemble comedies, but I, I think I'm interested in good stories and stories that are told well. It's sort of getting harder to find just good stories, but I do think the rest of the world is doing them, even if we're not always doing them in America. I think that women are very capable and surprising people who are often underestimated, and so I think I always think of a woman sitting by herself in a movie theater, sort of wanting to be taken out of herself, and I try to make movies for that woman. Allora, lei intanto ci confessa i suoi gusti in fatto di film preferiti, probabilmente quelle che lei guarda la sera quando si mette sul divano. Sì, older films, quindi lei è una great admirer of, quindi essere un ammiratore di, questo è come in italiano, e poi usa questa espressione che è un'espressione francese che però gli americani usano, e probabilmente in un modo in cui i francesi non la userebbero. Comunque vuol dire quando si fanno quei film, noi diremmo corali, quindi old ensemble comedies, sono quelle commedie corali, cioè con tantissimi personaggi. Queste ensemble comedies vecchie, però che hanno in un certo senso un tratto distintivo, cioè che sono delle belle storie, delle buone storie. Sì, alla fine insomma quello che dicono molti attori è to be interested in good stories, stories that are told well, quindi devono essere delle buone storie, nel senso interessanti, e poi raccontate bene. E poi dice purtroppo è sort of getting harder to find good stories. Sort of è un modo per dire praticamente, noi diremmo di fatto diventa sempre più difficile, quindi di fatto diventa it's getting harder to find these good stories, diventa sempre più difficile trovare questi copioni interessanti. E succede spesso che questi grandi attori hollywoodiani, che hanno bisogno di lavorare molto relativo e soprattutto un relativissimo bisogno di soldi, perché diciamo che sono pagatissimi, spesso ultimamente si danno a film indipendenti e guardano anche a storie che non sono tipicamente americane, come le definiremo noi. E infatti dice nel resto del mondo queste storie, appunto, che non sono così americane, gli altri le fanno. Tutto sommato, poi, se guardiamo gli Oscar di quest'anno, Slumdog Millionaire è esattamente questo, cioè una storia fatta dal cinema inglese che poi ha sbancato agli Oscar. Quindi, e qui dice un'espressione, lei dice in America. Questo è interessante perché l'America, naturalmente, per noi è del sud e del nord, ma spesso gli americani, per indicare gli Stati Uniti, dicono here in America, che per loro è gli Stati Uniti, l'America è una sola, è quella lì. To court. Tra l'altro lei donna, fiera di essere donna, e si rivolge alle donne anche quando sceglie ruoli. Sì, dice una cosa con cui sono perfettamente d'accordo, che women are often underestimated, cioè le donne vengono spesso sottostimate anche nella loro capacità di meravigliarsi e di trovare delle cose interessanti, simple ma anche out of the ordinary. E quindi si è fatta questa immagine di una woman sitting by herself, cioè una donna che è perfettamente in grado di andare al cinema da sola, by herself, e magari divertirsi. I want to make movies for that woman. Voglio fare i film per quella donna. Insomma, siamo a un passo dalla festa della donna e siamo in tema con questa Sigourney Weaver che abbiamo appunto incontrato un po' di tempo fa, ma questa intervista era ancora molto interessante, a mio avviso, da sentire, perché lei è veramente un bel personaggio. Si conclude qui il nostro English 24 per questa settimana, ma ritrovate il giornale Edicola anche con Sigourney Weaver, con questa intervista che abbiamo ascoltato. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'auguro di una buona serata.